382. Fagiolini con l'odore di vaniglia. Ponete i fagiolini molle nell'acqua fresca e se sono teneri metteteli crudi e interi, senza sgrondarli troppo in umido, nel seguente modo. Fate un soffritto con olio, uno scalogno, prezzemolo, carota e sedano, e il tutto tritato fine. Invece dello scalogno può servirvi la cipolla novellina o la cipolla comune. Conditelo con sale e pepe e quando avrà preso colore allungatelo con brodo o passatelo spremendolo bene. A questo sugo passato aggiungete sugo di pomodoro e nel medesimo gettate i fagiolini per cuocerli. Prima di levarli, aggrassiateli con 2 cucchiaini di zucchero vanigliato e se questo odore non piace, sostituite l'anepitella.